Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Cara Radio 24, il nostro governo sta preparando in questi giorni un disegno di legge al fine di impedire all'opinione pubblica di essere informata sui più vistosi casi di malversazione, peculato e corruzioni in genere, preannunciando sanzioni degne di un regime fascista, come carcere fino a 6 anni e multe fino a 460.000 euro, per i giornalisti o gli editori che venissero in possesso del contenuto di certe intercettazioni. La mostruosità di quella che poteva essere la pena detentiva ha indotto poi qualcuno a ravvedersi su questa proposta, depennandola quindi dal disegno di legge. Non escludo che alcune campagne giornalistiche, motivate da puro scopo di marketing, debbano essere regolamentate, ma parafrasando una famosa frase di Carlo Marx, l'ignoranza è l'oppio del popolo bue. E questo potrebbe essere lo scopo di questa iniziativa del nostro esecutivo. Ma dove è finita la libertà che il nostro amato Premier proclamava a squarciagola gli scorsi anni? Ora però, se pensiamo che l'evasione fiscale degli italiani si aggira sui 130 miliardi di euro l'anno, mi sembrerebbe molto più giusto mandare in galera i maxi evasori, che in Italia non mancano, evitando invece di imbavagliare chi svolge il sacrosanto mestiere dell'editore o del giornalista. Angelo. In questi giorni stanno scorrendo fiumi di parole sulla necessità assoluta delle intercettazioni. Credo che questo problema sia legato ad un altro ancora più importante, la certezza della pena. A cosa servirebbero infatti anni di lunghi origliamenti telefonici, registrazioni di dialoghi di ogni tipo, spese illimitate di denaro pubblico per arrivare ad un risultato, per poi vedere i colpevoli, gli incastrati dalle intercettazioni, scarcerati dopo un niente per cavilli, per ritardi, per inefficienza degli stessi magistrati che ora sbraitano per difendere la necessità di questo aiuto. Quanto fa ancora più rabbia avere coscienza che tanto si sia fatto per conoscere e tanto poco si faccia per garantire la pena assegnata. Non possiamo più giustificare spese inutili, o meglio, rese inutili da comportamenti successivi sbagliati. Giulia. Gentile direttore, la pubblica amministrazione costituisce praticamente da sempre uno dei problemi più importanti per l'efficienza dello Stato. La manovra di cui si discute in questi giorni prevede un taglio degli stipendi più alti, delle consulenze, delle spese da parte degli uffici pubblici, ma in questo modo si rischia di creare ancora meno efficienza, si rischia di ridurre ancora di più le motivazioni di chi svolge un lavoro essenziale per la società, come i magistrati. E per risolvere un problema si rischia di crearne ancora di maggiori. Alfonso. Caro Alfonso, forse è opportuno sgombrare il campo dai pregiudizi. Non è vero che tutta la pubblica amministrazione sia inefficiente, non è vero che la burocrazia sia solo un costo e un ostacolo. Ci sono uffici, funzioni e competenze che negli ultimi anni hanno fatto un cammino molto forte nell'uso dei più efficienti strumenti informatici e nella semplificazione del rapporto con i cittadini. È quindi sbagliato generalizzare, mentre sarebbe importante cercare in tutti i settori le strade per una maggiore efficienza. Tra questi, per esempio, al di là dei giudizi politici e di merito, andrebbe affrontato in maniera radicale il problema dell'organizzazione della giustizia. Il tempo medio dei processi, sia in sede civile che in sede penale, è una realtà che un paese moderno non può più permettersi. Per questo, riorganizzare procedure e strutture appare indispensabile. Il vero problema è questo, infatti. In Italia, con Berlusconi, il tema della giustizia è diventato un problema politico. L'organizzazione e l'efficienza sono passati in secondo piano. E quindi è vero, in queste condizioni, i tagli, senza cambiare metodi di lavoro, rischiano di aggiungere problemi ai problemi. Egregio direttore, lavoro in Svizzera e tutti i giorni devo incassare le risate e i commenti sull'Italia e soprattutto sulla politica italiana. Quindi le chiedo, ma dopo Tangentopoli, dopo le intercettazioni telefoniche, dopo gli abusi di potere per case e quant'altro, dopo trans ed escort, com'è possibile che in Italia si continuino a rifare gli stessi errori? Massimo. Ecco il mio punto di vista su Santoro. Santoro è un giornalista che conosce bene il suo mestiere. Meriti a parte, di certo è vissuto come personaggio scomodo alla politica e per questo probabilmente apprezzato da una parte dei cittadini. La sua scomodità ha però un prezzo. Un euro o 10 milioni non sono importanti, è solo un fatto contrattuale o di contrattazione. Però si accetta denaro per non essere più scomodo, almeno alla RAI. Chi mi dice che il denaro non sia l'obiettivo della sua scomodità? E poi ancora, se sostieni la tua posizione di giornalista che non si ferma davanti ai potenti e carichi come un toro sapendo di essere dalla parte della ragione, sei disponibile a barattare la tua ragione con del denaro? In altre parole, se la sua permanenza alla RAI dovesse chiudersi, così come si dice, qual è la credibilità di tutte le battaglie finora condotte? Pino. Egregio direttore, molto tempo fa mi sono imbattuto in una graffiante sentenza che mi pare si adatti benissimo al caso Santoro e non solo a lui, naturalmente, ma anche alla quasi totalità dei personaggi della sinistra. La frase secca e graffiante suona così: cuore a sinistra e portafoglio a destra. Ormai persone della sinistra come Sandro Pertini, per fare un esempio, fanno parte di un mondo che le nuove generazioni cominciano a percepire come mitico. Tra un po' cominceranno a credere che certi personaggi, senza macchia e senza paura, non sono mai esistiti nella realtà, alla stessa stregua di Tex Willer, per intenderci. Chiedo venia alla gente di sinistra, ma io continuo a ritenere intellettualmente più onesto chi la passione politica la tiene a destra, insieme al portafoglio. Mi sembra, nel bene o nel male, meno ipocrita. Carlo. Stimato direttore, quello che più mi ha stupito in tutta questa faccenda di Santoro è che non ho sentito Berlusconi, notoriamente critico nei confronti del personaggio, dire nulla a proposito. Significherà qualcosa? Questo silenzio ci può offrire una lettura diversa dell'affare? Ferruccio. Le chiamano morti bianche come avvenissero senza sangue. Le chiamano morti bianche perché l'aggettivo bianco allude all'assenza di una mano direttamente responsabile dell'accaduto. Invece la mano responsabile c'è sempre, e più di una. Le chiamano morti bianche come fossero dovute alla casualità, alla fatalità, alla sfortuna. Le chiamano morti bianche, ma il dolore che fa loro da contorno potrebbe reclamare ben altra sfumatura cromatica. Le chiamano morti bianche per farle sembrare candide, immacolate, innocenti. Le chiamano morti bianche, tanto non meritano che due righe sui quotidiani. Sì e no, una citazione nel telegiornale. Le chiamano morti bianche per evitare che si parli di omicidi sul lavoro. Le chiamano morti bianche, bianche come il silenzio, come l'indifferenza che si portano dietro. Le chiamano morti bianche, ma non sono incidenti. Dipendono dall'avidità di chi si rifiuta di rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro. Le chiamano morti bianche, un modo di dire beffardo, per delle morti che più sporche di così non possono essere. Le chiamano morti bianche, ma sono il risultato dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dove la vita non ha valore rispetto al profitto. Le chiamano morti bianche, ma sono tragedie inaccettabili per un paese che si definisce civile, che non può permettersi di avere tutte queste morti sul lavoro. Le chiamano morti bianche, ma in realtà sono nere, non solo perché ogni morte è nera, ma perché spesso, quasi sempre, le vittime non risultano nemmeno nei libri paga dei loro padroni, padroni della loro vita e della loro morte. Le chiamano morti bianche, ma non sono un'emergenza nazionale, anche se c'è chi dice che sono in calo, senza rendersi conto che i dati sulle morti sul lavoro sono fortemente sottostimati e che se il calo c'è è dovuto principalmente alla crisi economica. Le chiamano morti bianche, un eufemismo che andrebbe abolito perché è un insulto ai familiari e alle vittime del lavoro. Le chiamano morti bianche, ma quanto tempo passerà ancora perché vengano chiamate con il loro vero nome? Marco, operaio metalmeccanico e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Firenze. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.